FM. In the wall, Pink Floyd. Saluto il nostro amico Toki da Firenze che ci chiede il titolo del brano passato un po' di tempo fa. Mercy Playground, il nome del gruppo. Sex and Candy, il titolo di quella canzone. Siamo arrivati alle 10:35 minuti primi ed è tempo anche di Tour de Force. Tour de Force. Iniziamo con la Rock FM Monster Band, venerdì 9 maggio in Piazza Liberty a Milano e sabato 24 maggio all'area Gens di Pontedera, provincia di Pisa. I Sud Sound System, che sono stati i nostri ospiti ieri sera con Edo, saranno l'8 di maggio all'Alcatraz di Milano, il 16 maggio all'Auditorium Flog di Firenze. Continuiamo invece con il prossimo gruppo, si parla di un festival, l'Usi Fest, sabato 10 di maggio dal vivo all'FO Boccaccio, che si trova proprio in via Boccaccio, in quel di Monza, in provincia di Milano. Suoneranno Warmonger, Funeral Rape, Oniric, M16, Tormente e Self Disgrace. Glenn Hughes, 26 di maggio al Teatro Fanin di Bologna, 27 maggio al Music Drome di Milano, i Motor Psycho, 22 maggio al Viper di Firenze, il 25 maggio all'Alcatraz di Milano. Al Milwaukee 50 Diners di Varedo, provincia di Milano, venerdì 9 maggio, una nottata, una serata dedicata a livello di tributo ad Elvis Presley con The Dreamers. I Pancreas il 10 di maggio saranno alla Flog di Firenze a seguire DJ set con Ariel e Max De Rio. 10 di maggio al Porca Loken, questo è il nome del locale, che si trova a Mortara, provincia di Pavia, suoneranno Mesmerize e Killing Kind. After Hours saranno dal vivo martedì 13 maggio alla Sashow di Firenze, venerdì 23 maggio al Palasharp di Milano e nostri ospiti oggi a mezzodì. Continuiamo con il Rock and Film Festival, 26 luglio il Roscalo di Milano con Halloween Epica, Threshold, Vision Divine, Avantasia, Biomechanical. Proseguiamo invece con i Metallica, che saranno nella loro unica data italiana il 27 di luglio all'Arena Parco Nord di Bologna. Rage Against the Machine, unica data italiana, 14 giugno allo Stadio Braglia di Modena, unica data italiana anche per i Bad Religion. Lunedì 16 giugno al Rolling Stone di Milano. Termina quindi il nostro primo appuntamento, il prossimo lo ritroverete nel pomeriggio di Rock FM. Rock. Another night, and I'm all alone. And I wonder where you are, who you're holding. And I'm wasting time by telephone. Gets harder when there's no way of knowing. I thought we'd be together someday. Summer Now, Elegance, caro Max da Fucecchio, 22 luglio, confermo, 22 luglio in quel di Bologna, Arena Parco Nord, mi sembra di aver detto 22 luglio, quindi è il 22.07 ed è un martedì, ok? Quindi te lo confermo. Un saluto anche a Bonnie, buona giornata anche a te. E il prossimo brano, beh, questo è l'originale, poi coverizzato da molti, ma questo è l'originale, King Crimson, 20th Century Schizoid Man. Yeah. the best laid plan. Swing low, Alabama. You got the spare chain. You got to feel strange. And now the moment is all that is in Alabama. You got the weight on your shoulders. Let's break. Notti di Alabama, in chiusura di questo Trace, nel quale abbiamo ascoltato 20th Century Schizo e Mandy, King Crimson, Hocus Pocus, un gioco di parole, anche perché il nome del gruppo è Focus, gli olandesi Focus, molto in auge e in voga, soprattutto negli anni 70-80. Da Neil Young al prossimo personaggio, Billy Idol, queste sono le note di Catch My Fall. Yeah, oh, rock of youth, yeah. trusted and then broken. Just to keep me free in this mad, mad world. It could happen to you. So thankful yourself. If I should stumble, that's my fault, yeah. If I should stumble, if I should stumble on you.